fare in inferno quello che ho, freddo in eterno, niente amore quello che ho, sento l'asfalto, dolore è tutto quello che ho, eppure guardo il sole così caldo, è così lontano il sogno realizzato, perché tanti ostacoli, guardare avanti è così difficile, la gente smetterà di fare calcoli, quando un sogno d'amore sarà invincibile, invincibile allora è non desiderare, t'amerò mai un giorno, cuore in inferno questo, il tuo bacio ora è su una bocca senza arte, quante ore sole dovrò passare ancora in parte, dimmelo piccola donna, quanti anni da parte, la clessidra dell'eterno non ha una fine, allora perché sento scandire l'ultima ora, quello tra me e te sono rime, o forse solo muri che la mia arte colora, Gesù sento così freddo, se esisti salvami da questa guerra, perché mi hai dannato, dannata solitudine, e questa solitudine senza fine, fin dove giunge il mio salto, ho scritto rime per niente, Gesù esisti, rispondimi, e cuore in inferno questo, questo così sofferente, e cuore in inferno questo.